Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il governo francese sta studiando il varo di strumenti legislativi per disciplinare il diffondersi del burqa, considerato il gran numero di immigrati di religione islamica residenti in Francia come in tutta Europa, motivando l'interesse al problema, perché di problema si tratta, con diverse ragioni. La prima ragione è che non può essere consentito a nessuno di circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico con il volto nascosto, e ciò per motivi di pubblica sicurezza. L'altro motivo, non meno importante, risiede nel principio di civiltà dell'autodeterminazione di ogni persona, principio che non può subire limitazioni da parte di qualsivoglia confessione religiosa. I cittadini di ogni paese sono tenuti all'osservanza delle leggi nazionali democraticamente emanate e non ad altro. Detto ciò, tutti gli uomini hanno il diritto e il dovere di difendere l'umanità dal dilagante e minaccioso diffondersi di alcune feroci e disumane teocrazie che considerano la donna un essere impuro, non soggetto di diritti, ma assoggettata all'uomo, che su di essa ha diritto di vita e di morte e alla quale sono negate anche le più elementari libertà. Il multiculturalismo deve essere inteso come arricchimento culturale e come il più potente antidoto contro la guerra. Certo, ci sono anche tanti immigrati che vengono da noi per delinquere. Non vi è dubbio che da costoro dobbiamo pretendere di essere difesi dalle istituzioni con tutta la severità necessaria. Ma ci sono poveretti che vengono dall'Africa con le cosiddette carrette del mare per fuggire da miseria o da feroce persecuzione, rischiando la vita con perigliose navigazioni che spessissimo si risolvono tragicamente. Con che cuore, con che umanità possiamo respingere al mittente questi nostri fratelli disperati? Non vi può essere dubbio, dobbiamo cristianamente soccorrerli, sfamarli, confortarli e industriarci per trovare loro una accettabile sistemazione. Qualora si dovesse stabilire che sono troppi per le nostre possibilità di accoglienza, dobbiamo pretendere dagli organi comunitari europei un'equa ripartizione. Lo Stato non deve essere forte con i deboli e debole con i forti e i delinquenti. Cesare. Caro Cesare, le sue osservazioni rispondono alla logica e alla correttezza civile. Solidarietà e giustizia devono andare di pari passo nel guidare una crescita sociale che per molti motivi non può ormai prescindere dalla presenza degli immigrati. È chiaro che c'è un confine sottile e complesso tra il dovere di garantire la massima libertà sociale e religiosa e la necessità di far osservare le regole della civile convivenza. Nel sondaggio di Radio 24, qualche giorno fa, la grande maggioranza dei votanti si è espressa favorevolmente sulla possibilità che anche in Italia si decida di proibire l'uso del burqa nei luoghi pubblici. Un provvedimento di questo tipo non andrebbe considerato come un atto di ostilità verso la religione islamica, ma una difesa delle regole comuni e condivise, regole che servono agli stessi immigrati per rendere più facile la loro necessaria integrazione nella nostra società. Scrivo a proposito della legge francese che vieta il burqa nei luoghi pubblici. Non ho particolari simpatie per i francesi, ma cambierei immediatamente la nostra classe politica per la loro. Ammiro molto il loro senso di interesse nazionale. Quando un provvedimento del governo tende sia economicamente che praticamente a migliorare o a proteggere la vita dei loro concittadini, le opposizioni non fanno mancare il loro appoggio senza se e senza ma. A quando anche in Italia una tale maturità? Maurizio. Volevo condividere questa considerazione a proposito del sindaco di Bologna. Se effettivamente fosse cristallino, come dice di essere, basterebbe prendesse il suo estratto conto bancario o l'estratto conto della sua carta di credito ed evidenziasse le spese pagate di tasca sua per la sua fidanzata. Tenete presente che lavoro in banca e mi occupo proprio di pagamenti con carte, quindi so perfettamente quali informazioni vengono fornite ai titolari di carte di debito o credito a fronte delle spese effettuate. Non so bene a quali spese facesse riferimento l'ex fidanzata del sindaco, ma ho qualche dubbio che abbia pagato in contanti. Bastano 10 minuti per salvare la faccia, non la poltrona o la credibilità di una parte politica, solamente la faccia, che per una persona seria non ha prezzo. Non capisco i vari Bersani e Di Pietro che esaltano le dimissioni, peraltro solo annunciate, di Del Bono, ma ci prendono per scemi. Ripeto, basta prendere i documenti bancari per dimostrare chi ha pagato, quanto ha pagato, dove e quando. Se non lo ha fatto, cosa dobbiamo pensare? Paolo, provincia di Vercelli. A proposito dello scandalo che ha visto coinvolto il sindaco di Bologna Flavio Del Bono, perché non facciamo in modo che se l'indagato poi risulta innocente, il magistrato che l'ha indagato deve andare a zappare la terra? Tutti quelli che hanno indagato Berlusconi, che ogni volta è stato assolto, quello che ha indagato Del Turco, eccetera, tutti a zappare, e magari facciamo pagare loro anche i danni. Perché non rimettiamo in funzione la responsabilità civile dei magistrati, visto che abbiamo già votato un referendum? Una domanda: perché nessuno ha evidenziato il vero scandalo di Del Bono, cioè che è stato indagato oggi, ma i precedenti magistrati avevano detto tutto ok? Per la prima volta l'uso politico della magistratura è consentito nel non indagare. Posso ragionevolmente credere che sia accaduto in precedenza per altri uomini del centro-sinistra? Vedi Di Pietro? Lorenzo. Scrivo a proposito del sottosegretario Guido Bertolaso, che ha giudicato piuttosto negativamente lo svolgimento delle operazioni di soccorso e aiuto alle popolazioni di Haiti. L'unica osservazione che posso fare al riguardo è che forse la sua critica, fatta a soli 2 giorni dal suo arrivo in quelle zone, è stata un po' troppo frettolosa. Gli italiani, distanti 9.000 chilometri dall'isola martoriata dal sisma e informati unicamente dai servizi TV Rai o Mediaset, non credo potessero essere in grado di stabilire se Bertolaso fosse nel torto oppure no nell'esprimersi al riguardo. E chissà se egli non avesse voluto lanciare una frecciatina al nostro premier allorquando, dopo il terremoto dell'Aquila, lui si recava settimanalmente in quella località con fini quasi esclusivamente di marketing personale. Angelo da Genova. Ieri sera ho visto Nine, il musical che si ispira alla vita di Federico Fellini e al suo film 8 e mezzo. Amo il cinema, i musical, Fellini, l'Italia, e mi incuriosivano le critiche negative lette in giro su quest'opera di Bob Marshall. Nei primi minuti sono rimasto un po' interdetto, poi ho guardato il film da un punto di vista americano, cioè di chi il film lo aveva realizzato e diretto. Noi italiani siamo realmente diventati così deprimenti visti dal di fuori? Le nostre tradizioni si riassumono in meretrici che danzano con la tamburella, madri che non riescono ad opporsi ad un'educazione cattolica, donne capaci solo di vendersi e uomini non in grado di reggere più alcun confronto o impegno lavorativo o familiare? Alla fine il regista ci lascia con un sogno che forse è l'unica cosa che ancora ci reputa in grado di fare. Noi ci preoccupiamo per qualche parola di troppo di Bertolaso e in America fanno a pezzi uno dei nostri migliori registi e tutta la nostra società un po' cattolica e un po' tradizionalista. Gabriele. Da qualche giorno mi chiedevo come mai provo tanta rabbia quando vedo lo spot che reclamizza il cosiddetto abbonamento Rai. Poi l'ho capito. Lo spot, con tanti italiani felici che non vedono l'ora di pagare l'abbonamento e che avvertono scade fra poco, è una terribile presa in giro per tutti noi. L'abbonamento è una tassa. Non posso scegliere se pagarla o no, devo pagarla. Se non la pago, incorro in sanzioni. Devo pagarla anche se guardo la Rai molto raramente o quasi per nulla, dovendo comunque digerire una buona dose di pubblicità. Non posso scegliere. Sarebbe stato molto più onesto fare uno spot informativo che avesse detto «se non paghi, incorri in sanzioni». E poi perché dobbiamo chiamarlo abbonamento? Mi sento veramente preso in giro. Giuseppe. Egregio ministro Brunetta, mi permetto di segnalarle un'innovazione che la farebbe amare da 260.000 infermieri, dipendenti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale, ai quali attualmente viene impedito di svolgere un secondo lavoro per arrotondare l'indegno stipendio. Il decreto legislativo 165/2001, infatti, all'articolo 53, vieta lo svolgimento di qualsiasi attività extralavorativa ai dipendenti pubblici, ispirandosi al principio dell'efficienza e nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. Peccato che la realtà sia ben diversa. Invece che le 6 ore di lavoro giornaliere, la maggior parte di noi è costretta a svolgerne anche 16 nella stessa giornata. Vedi il caso degli infermieri reperibili nelle sale operatorie o degli infermieri che sono costretti a coprire i turni di lavoro scoperti per via della mancanza di personale. Si dà il caso che la carenza di infermieri è spaventosa e le offerte di lavoro per la nostra professione siano infinite. Altro trattamento è invece riservato ai 100.000 medici del servizio sanitario che hanno optato per la libera professione intramenia e che solo per questo ricevono un compenso di 1.030 euro mensili per poi svolgerla per lo più in nero nelle stesse strutture pubbliche. Le saremo infinitamente grati se riuscirà a mettere il dito in questa indegna piaga. Donato, Bergamo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.